Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette 11 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Partiremo dalle stime di Standard & Poor's, agenzia di rating, sull'andamento dell'economia dei vari paesi. Perché adesso bisogna stare molto attenti, ma vista la scarsità, diciamo così, di buone notizie, definire una buona notizia un PIL che cala di quasi il 9%, diciamo, solo in tempo di Covid riusciamo a farlo, però è anche vero che è cambiato il mondo, e lo dico perché rispetto alle previsioni di altri istituti che prevedono per quest'anno un PIL italiano a un meno 10 e anche di quelle riaggiornate del governo che lo prevedono a un meno 9%, oggi Standard & Poor's ha aggiornato i dati, le previsioni economiche sull'area euro, e ha migliorato, ripeto, un conto, per non fare come una barzelletta, insomma, un conto è parlare di un periodo normale, ma ha migliorato la stima del crollo, così, del nostro PIL, portandolo da un meno 9,5 a un meno 8,9 e soprattutto l'anno prossimo da un più 5,3 a un più 6,4%. È comunque meglio avere, per non essere come catalano, un miglioramento nonostante il crollo che non un peggioramento alla luce del crollo. È migliorato di un punto percentuale, quindi la stima sull'anno prossimo di crescita, ed è calata di uno 0,6% la stima del crollo di quest'anno. La media dell'area euro è di un meno 7,5% e un più 6,1%. Lo dico perché, prendendo pur con le pinze tutte le stime, le previsioni, l'Italia, questo vuol dire che l'Italia l'anno prossimo sarà anche un po' sopra la media di crescita dell'area euro, e quest'anno invece è un po' peggio della media di crollo dell'area euro. Dunque la disoccupazione arriverà al 9,1%. La cosa interessante è il commento a questo, perché nel commentare le previsioni Standard & Poor's riconosce che l'economia dell'area euro si è ripresa più velocemente del previsto dalla prima ondata di Covid, ma la prossima fase della ripresa potrebbe essere più impegnativa, anche perché dicono giustamente che è stato più facile riaprire le economie che gestire adesso il periodo di transizione del graduale ritiro del sostegno governativo. Quindi il fatto che adesso lentamente i singoli paesi avranno meno margine per aiutare l'economia in attesa che arrivino i soldi l'anno prossimo del Recovery Fund. E poi aggiunge anche, alla luce di quello che sta capitando in vari paesi su questo, e vorrei fare anche una chiosa da questo punto di vista, nei vari paesi, perché sia il Financial Times ieri che oggi la Commissione Europea hanno elogiato, una volta tanto sapete che io critico il governo, l'abbiamo fatto anche ieri sul Recovery Plan, però cerchiamo di farlo nella maniera intellettualmente più onesta possibile. È innegabile che in questo momento non solo la Commissione Europea, non solo il Financial Times, ma altri osservatori stiano notando in maniera positiva l'andamento italiano e tedesco per quello che riguarda la fase di contagi. Non voglio gufare, se no mi tocca rimettere il gufo che non usiamo da anni, e quindi non voglio tirarmela, perché insomma, speriamo che si mantengano questi dati, ma di fronte agli oltre 10.000 casi in in Spagna e in Francia al giorno e anche ai nuovi lockdown parziali, limitazioni, chiamiamole così, in Gran Bretagna, in questo momento l'Italia viene ritenuta, ripeto, non solo da Financial Times, ma oggi anche dal rapporto della Commissione Europea, uno dei paesi dove la diffusione è più bassa. E avete, i nostri GR24 vi hanno ricordato anche della risposta del presidente Mattarella, che io trovo fantastica, a Boris Johnson, se posso permettermi, sempre più in stato non confusionale, ma sempre più confuso, ecco, non diciamo in stato confusionale, ma confuso, sì, perché ieri durante un dibattito che noi chiameremo Question Time alla Camera dei Comuni, un membro dell'opposizione gli ha chiesto come mai la Gran Bretagna si muove in maniera peggiore rispetto a altri paesi, nello specifico l'Italia e la Germania. La risposta di Johnson è stata formidabile, perché ha detto: ma che noi siamo un popolo più abituato alla libertà. Io spero che non vi fosse nessun riferimento a ai regimi nazisti e fascisti, non ho ben capito cosa voglia dire la libertà. Siamo più abituati alla libertà, abbiamo più difficoltà a rispettare le regole. Ora, io non voglio cadere negli stereotipi, ma insomma, se c'è un paese che era ligio nella mia memoria, ci ho anche lavorato, alle regole, dalla coda, da come ti si mette in coda in poi, era la Gran Bretagna. Se c'era un paese che aveva più difficoltà, considerato anarchico, diciamo naturalmente anarchico, a rispettare le regole e i limiti, è l'Italia. Io capisco tutto di Boris, però iniziare a dire che la Germania e l'Italia sono più abituati al restringimento della loro libertà rispetto alla Gran Bretagna, mi sembra insomma che il rumore degli specchi sia totale. E la risposta di Mattarella oggi è stata, a mio avviso, del Presidente della Repubblica, è stata fantastica. Comunque, tornando alle stime di Standard & Poor's, è interessante notare che peggio di noi farà la Spagna, meno 11,3%, e un po' anche la Francia, meno 9%. È difficile dire ma il comune mezzo gaudio, però bisogna anche stare attenti a non immaginare l'Italia come una monade, cioè noi ci muoviamo in un contesto A europeo, B internazionale, e a partire dal nostro export, e quindi vedere che l'Italia farà meno 8,9, la Germania dovrebbe fare un meno 7,5, e la Spagna meno 11,3, la Francia meno 9, evidentemente significa che non stiamo facendo peggio degli altri, anzi, pur in una situazione drammatica, perché qualcuno mi chiede un raffronto. Guardate, dopo lo shock della crisi finanziaria del 2008, il nostro PIL l'anno dopo crollò del 3%, ci sembrò un crollo drammatico e quant'altro. Quest'anno stiamo commentando con favore un PIL che invece che fare meno 9,5 farà meno 8,9. Ecco, questa è la proporzione, quindi non sto dimenticando lo scenario di riferimento, però il contesto è anche importante. Parleremo di questo, parleremo anche del Consiglio di Amministrazione di Atlantia, che come sappiamo controlla con l'80% l'autostrada per l'Italia, è avviato il processo di dismissione dall'ASPI dando due possibilità sostanzialmente, il cosiddetto dual track, come si chiama in inglese, un processo trasparente di mercato, ne parleremo più avanti. Per quello che riguarda invece gli altri temi di questo programma, visto che ieri l'ho annunciato, parleremo anche dei modelli degli altri, nello specifico il piano francese, che cosa prevede il recovery plan francese e perché viene usato da molti come modello. Dall'altro invece, ma parleremo anche di Standard & Poor's, dall'altro invece, oltre alla vicenda autostrade, c'è anche la vicenda Ilva, perché i sindacati hanno sospeso lo sciopero nello stabilimento di ArcelorMittal di Taranto. Lunedì vi sarà un tavolo tecnico, dopo anche le dichiarazioni di ieri che abbiamo fatto ascoltare Emiliano, l'ospite Radio 24, in cui ha detto la regione Puglia potrebbe essere interessata o è interessata a entrare con una quota di capitale dentro Ilva, se appunto vi fosse un'operazione con il capitale anche pubblico. Io non ho dubbi a dire che secondo me è sbagliato che le regioni entrino col capitale in aziende di quel livello. Le regioni e lo Stato dovrebbero il più possibile verificare il rispetto degli accordi presi, e le regioni occuparsi di quelle che sono le loro deleghe, a partire dalla struttura sanitaria che è una delega regionale e quant'altro. Però vi arriveremo fra un attimo. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Oh. dunque, qualcuno mi fa notare che ho 3% sul PIL del 2009. Scusatemi, ho sbagliato. Il PIL era il 5%, ci mancherebbe 5,1% per essere proprio precisi. Il crollo del PIL nel 2009 come effetto del 2008 di tutto quello che è capitato nel 2009. Però il ragionamento non cambia. Qui siamo contenti perché il PIL cali meno e vada a un 8,9% invece che a un 10%. E quindi, però, stiamo sempre ragionando di un crollo che è quasi doppio, stimato quasi doppio, rispetto al crollo del 2009. La differenza potrebbe farla, ma adesso vi arriveremo. Il recupero, perché sappiamo che nel 2010-2011 il recupero non vi fu molto molto parziale, e poi vi fu una nuova botta nel 2011 e parte del 2012 come andamento del trimestre. E però insomma, su questo voglio dire, sarà importantissimo vedere il recupero, perché uno potrebbe dire, bene, se è crollato del doppio, però se l'anno prossimo veramente farai un più 6% è un recupero più forte in proporzione rispetto al crollo di quello che tu non hai avuto nel 2010-2011, poi ci fu la misura del governo Monti e la cosiddetta austerity imposta dall'Europa. Ma andiamo sui mercati finanziari, come sempre, come prima cosa, visto che avremo modo adesso di parlare di Standard & Poor's. Per quello che riguarda le borse, oggi sono leggermente deboli, tranne Parigi che perde più di altre, meno 0,90 Parigi, meno 0,4 Francoforte, meno 0,25 Milano. Londra è nettamente la peggiore, qui ci sono tutto un insieme di valutazioni che poi faremo, meno 1,36%. Per quello che riguarda i titoli, bene Banco BPM più 5,60 e Bipper Banca più 4,70, Fineco più 2,70%, Unicredit più 2,30, Atlantia più 1,1, Banca Generali più 1%. Fronte opposto, Saipem meno 4,20, Tenaris meno 2,20, Pirelli meno 2, come Azimut ed Eni, l'1,60 lo perde Nexi, l'1,20 Enel e Diasorin, l'1% è il calo di Banca Mediolanum. Allora, andiamo sulle altre notizie invece. Dagli Stati Uniti arriva una richiesta di sussidi di disoccupazione sopra le attese, a 870.000 unità. Per quello che riguarda invece la stima del PIL dell'area euro, abbiamo detto nel terzo trimestre, questa è però la Banca Centrale Europea, scusatemi, più 8,4% il terzo trimestre, che andrà in parte a riequilibrare il primo e soprattutto il secondo. La Banca Centrale Europea ricorda poi che la crisi legata al Covid ha rappresentato un triplice shock per l'economia mondiale, perché ha colpito i consumi privati, a differenza delle crisi passate, e quindi la perdurante incertezza sulle prospettive economico-sanitarie continuerà a gravare sui consumi, anche se è probabile che verranno meno le misure di contenimento dei vari paesi. Però l'incertezza, che non è legata alle misure di contenimento, è legata a un atteggiamento anche psicologico, continuerà a gravare sui consumi, e secondo la Banca Centrale Europea frenando così una ripresa più vigorosa dell'attività economica. Anche se va detto che la Banca Centrale Europea oggi parla di forte recupero nel terzo trimestre, per quanto sotto i livelli pre-Covid, stima comunque un'inflazione negativa e quindi una deflazione nei prossimi mesi, con un recupero nel 2021. I dati sempre macroeconomici: continua a salire l'indice IFO, anche l'indice che misura la fiducia delle imprese in Germania, è salito a 93,4 punti, un punto più del mese precedente, e si è stabilizzato nonostante un aumento anche in Germania dei casi di Covid, ripeto, però molto molto più contenuto rispetto a Spagna, Francia e Gran Bretagna, e molto simile ai numeri italiani. Dunque, veniamo al Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie, ECDC, non ACDC, questa è la capisce solo qualche persona sopra i 30 forse. Allora, Andrea Amon ha commentato come stanno andando i periodi di quarantena variabili applicati nei vari Stati membri dell'Unione Europea e ha detto: l'Italia, questo facevo riferimento, è nel gruppo dei paesi che il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie identifica come a rischio complessivo basso di Covid per la popolazione generale e per il sistema sanitario, mentre altri paesi sono considerati a rischio complessivamente alto. Faccio notare che oggi anche il ministro dell'economia tedesco Peter Altmaier è in quarantena dopo aver scoperto che un dipendente del ministero era positivo al Covid. Dal Belgio arriva una notizia che prendo con le pinze, perché ogni volta che sento parlare di vaccini bisogna stare molto attenti. Comunque il ministro alla salute Meg de Blok ha detto che i primi vaccini per il Covid-19 dovrebbero essere disponibili in Belgio a partire dal mese di marzo, saranno sviluppati dalla società Sanofi. In Israele invece è arrivato via libera al lockdown rafforzato. Notizia di colore, oddio di colore, sappiamo che uno dei settori più in crisi, oltre al tessile, calzaturiero, all'alberghiero, alla ristorazione, al mondo dei taxi, dei servizi connessi con il turismo, è anche il settore degli spettacoli, tutti inclusi, dai cinema ai teatri, dal mondo dell'opera ai concerti. E allora è interessante, si fa per dire, notare che la Metropolitan Opera, il Metropolitan Opera resterà chiuso per oltre un anno. Tra l'altro il timore a New York è che questo inneschi una reazione a catena a Broadway in primo luogo, dove tutti i teatri sono chiusi dallo scorso marzo. Ieri abbiamo raccontato di New York, della protesta dei ristoratori, perché a fine settembre dovrebbe essere permesso dal governatore Cuomo di mangiare anche dentro al ristorante, non solo all'aperto, ma con una capienza del 25% massimo. I ristoratori dicono: in questo modo falliremo, e chiedono di prorogare la possibilità di mangiare all'aperto fino al 31 ottobre. Broadway è chiusa da marzo, e qui, al di là dell'elemento legato agli spettacoli, sono migliaia, chiunque conosca New York lo sa, migliaia di lavoratori che lavorano proprio nel settore dei teatri di Broadway. Qualcuno mi dice: ma cosa ha detto esattamente Mattarella a Johnson? Allora ve lo riporto testualmente, perché nella margine di una cerimonia in ricordo dell'ex presidente della Repubblica Francesco Cossiga, conversando con alcuni partecipanti in risposta a chi chiedeva che cosa pensasse di quanto dichiarato dal premier Johnson sul fatto che gli inglesi, a differenza di italiani e tedeschi, amano la libertà, Mattarella ha detto: anche noi italiani amiamo la libertà, ma abbiamo a cuore anche la serietà. Ora ovviamente il Quirinale non si sarebbe mai permesso di usare il termine serietà nei confronti di Boris Johnson, però siccome quella frase era particolarmente sibillina, visto che citava Italia e Germania, ripeto, non vuole pensare male, no? Come popoli che amano la libertà meno degli inglesi, ha fatto bene il Presidente della Repubblica a rispondere che amiamo anche la serietà. Ecco, io che non sono Presidente della Repubblica ovviamente posso aggiungere che serietà che Boris Johnson ha dimostrato quasi mai. Basta vedere la gestione che ha avuto del Covid: prima bisognerà fare l'immunità di gregge, bisognerà imparare a dire addio ai nostri cari, con tutta la Gran Bretagna che lo salutava davanti al televisore. Poi l'hanno ricoverato, è uscito tutto stordito, ringraziando i medici, gli infermieri, molti dei quali erano extracomunitari alla faccia della Brexit, o erano comunque comunitari quelli che lo hanno salvato. Poi ha capito che col Covid non c'è da scherzare. Insomma, è chiaramente un periodo difficile per... Adesso deve gestire una Brexit, non sa da che parte girarsi. È chiaramente un periodo difficile per Boris Johnson, e ha tutta la nostra solidarietà. Due notizie di carattere internazionale. Mentre a Shanghai torna la settimana della moda, che è importante anche per noi, però si stima, in un sondaggio condotto dal China Youth Daily, che nell'imminente festa nazionale, il festival diventato autunno, il 40% dei cinesi ha deciso di restare a casa durante gli 8 giorni di ferie. Uno lo può pensare come vuole, ma ricordo che i cinesi erano tra i turisti, diciamo, più appetibili in Italia, e non solo, perché con un alto tasso di spesa, assieme a altri turisti che venivano fuori dall'Europa. Comunque questa è relativa a una festa di 8 giorni, ma l'indicazione è abbastanza chiara. Per quello che riguarda l'Italia, al di là delle stime di Standard & Poor's e della vicenda Atlantia e Ilva, di cui parleremo nel dettaglio, segnalo altre due cose. Le abitazioni, secondo le stime preliminari nel secondo trimestre 2020, l'indice dei prezzi delle abitazioni acquistate dalle famiglie è aumentato del 3% e del 3,4% nei confronti dell'anno precedente. È l'aumento più ampio da quando è disponibile la serie storica, ed è attribuibile sia ai prezzi delle abitazioni nuove che a quelle esistenti. Questo sarà interessante notare. Noi abbiamo parlato molte volte in queste settimane con chi si occupa del mercato immobiliare, che ci ha sempre detto: attenzione, tranne alcuni casi relativi magari alle grandi città, non ci attendiamo un calo forte dei prezzi, anzi casomai. E soprattutto l'idea che adesso vadano per la maggiore le abitazioni più periferiche, perché un po' più ampie e magari col giardino, vale solo per città come Milano, forse Roma, Torino e Napoli, perché in tutto il resto d'Italia non c'è una tale distanza tra dove lavori e dove puoi diciamo trovare un'abitazione un po' più grande e un po' più agevole. Non c'è una tale distanza chilometrica come invece avviene a New York o a Londra o in altre grandissime metropoli. Adesso arrivo al recovery, ancora due notizie per quello che riguarda il... qualcuno mi chiede se ci sono notizie su Unicredit, Banco BPM. No, sono stati smentiti, nonostante il titolo corra, i contatti tra Banca Popolare di Milano e Unicredit. Sono stati assegnati oggi tutti i BTP, 3 miliardi e 750 milioni di CTZ e 750 milioni di BTP. Per quello che riguarda invece i dati sul commercio a cui facevo riferimento, il commercio extra UE ad agosto non ha fatto un bel dato per nulla, perché le importazioni sono cresciute del 5% e le esportazioni hanno fatto meno 0,3%. Il saldo commerciale è pari a più 3 miliardi 270 milioni, però contro i 3 miliardi dell'agosto 2019. Questo non deve sorprendere, perché se nell'agosto 2019 l'import era aumentato sempre più dell'export, ma in maniera più alta, alla fine il saldo tra esportazioni e importazioni può essere migliore quest'anno rispetto all'anno scorso, e lo è di 200 milioni. Dunque, adesso ultima notizia. Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con la delega per l'editoria, Andrea Martella, ha annunciato in Commissione Cultura della Camera, a proposito del Recovery Plan, che per avere stimoli sul fronte culturale si può pensare a un voucher per le famiglie, soprattutto a basso reddito con figli minori, per l'acquisto di devices, cioè voglio dire il tablet o il computer, cioè tutto quello dove poi telefonino, immagino anche di abbonamenti a giornali e periodici, oppure di voucher per l'acquisto di prodotti editoriali da ritirare o spendere nelle edicole. Vogliamo promuovere l'alfabetizzazione all'informazione digitale e alla lettura critica. La pandemia ha evidenziato il ruolo strategico dell'informazione, come dicevo, e l'importanza dell'educazione all'utilizzo dei contenuti informativi, a partire dalla scuola, che è il primo e più importante fronte di investimento pubblico. E questo avvalora, mi permetto di dirlo, la scelta giusta fatta già nella legge di bilancio del 2020 di destinare stabilmente 20 milioni di euro alla promozione della lettura nei giornali e nelle scuole. Ma dobbiamo lavorare appunto a sostenere la domanda, promuovendo sempre di più una alfabetizzazione all'informazione digitale in tutte le fasce di popolazione. Quanto agli ulteriori stimoli alla domanda, che potrebbero trovare spazio nell'ambito del Recovery Fund, pensiamo a interventi indirizzati in particolare alle fasce critiche della popolazione, e cioè in primo luogo over 65, famiglie a basso reddito con figli minori, nella forma per esempio di contributi per l'acquisto di device e di abbonamenti a giornali e periodici oppure di voucher per l'acquisto di prodotti editoriali da ritirare o spendere nelle edicole. Allora, 349-238-6666 per sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook, meteo e poi le stime europee, ma anche i modelli non sanitari. Non ho nessun problema a dire che evidentemente l'Italia e gli italiani si sono comportati bene, così rispondo anche a qualche messaggio. Abbiamo visto che in Gran Bretagna il lockdown faceva ridere rispetto al nostro, ma anche in Francia e in Spagna evidentemente qualche errore l'hanno commesso nella gestione, comunque più morbida della nostra. Però detto questo, detto che sono gli altri a dover prendere noi come modello, una volta tanto si può anche dire con orgoglio, come modello della gestione sanitaria, con buona pace dei negazionisti, di questi così clown che per qualche comparsa televisiva devono sempre negare la realtà, però si può imparare dagli altri e nello specifico dalla Francia. Chi mi chiede di Saipem, ne parleremo nei mercati finanziari, andiamo sul meteo. Focus Economia. Minuti. Io sinceramente delle volte sono dissociato con alcuni ascoltatori, lo ammetto, perché per aver ricordato che l'Italia, ma non lo dico io, lo dice oggi l'Unione Europea, ha una gestione definita meno preoccupante, anzi adesso vi dico, il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie, che definisce l'Italia nel gruppo dei paesi a basso rischio complessivo, e aver detto che forse Johnson poteva risparmiarsi quella battuta perché poteva imparare dal modello italiano, che abbiamo gestito meglio, grazie intanto e soprattutto in primo luogo al senso civico e di responsabilità degli italiani, mi stanno arrivando decine di messaggi di insulti. Dov'è la gestione? Abbiamo avuto più morti di altri, sono politici allo sbaraglio. Ma guardate, io non so, a parte il fatto che i numeri hanno la testa dura, se noi qua, e spero che non arriveremo mai a quei livelli, abbiamo un ottavo, un nono, un decimo dei casi e delle terapie intensive, guardate i numeri prima di scrivere, per favore. Smettetela con questa abitudine di scrivere la prima cosa che passa per la testa. Capisco che magari lo smart working lascia anche del tempo a disposizione, ma guardate i numeri di terapia intensiva in Francia, i numeri di terapia intensiva in Spagna, Marsiglia con le terapie intensive già piene, Madrid che non sanno dove metterli, e poi mi dite se la situazione è migliore o peggiore lì. Io non capisco il tafazzismo. Abbiamo criticato ieri il governo, lo faremo adesso, perché sul recovery plan le indicazioni sono ancora troppo generiche, troppo alla come se fosse Antani, ma se diciamo una cosa positiva del nostro paese, riprendendo la valutazione dell'Agenzia Europea, perché bisogna sempre scrivere cosa abbiamo gestito, guarda i morti li abbiamo avuti perché siamo stati il primo paese e perché ci sono stati degli errori, in particolare in Lombardia, come abbiamo ricordato decine di volte, nella ospedalizzazione dei primi casi. Non lo sapeva nemmeno nessuno, mancava la medicina nel territorio Lombardia più che in altre regioni, benissimo, o meglio malissimo. Però poi complessivamente io sto parlando di come abbiamo gestito con responsabilità, ma qualcuno è mai andato a farsi un giro a vedere le immagini di come non c'erano le mascherine in Francia, in Spagna e in Gran Bretagna, di come l'hanno presa alla leggera? Guardatevi i titoli dei giornali prima di scrivere. I francesi, gli spagnoli e gli inglesi, a differenza nostra, minimizzano tantissimo i loro casi. Vorrei vedere se avessimo avuto noi 10.000 casi al giorno e quasi 1.000 persone in terapia intensiva e la Francia ne avesse avuto i 1.600 con 180 o quanti sono. Ma mi gioco quello che volete, quello che ho di più caro, che i titoli sarebbero stati Italia di nuovo con la seconda ondata, Italia di nuovo sommersa. Ecco, guardatevi le Figaro prima di scrivere, se riuscite, diciamo, la traduzione in italiano in automatico, e vedete come si comportano loro. Porca miseria. Poi si critica il paese, ma è possibile che siamo sempre con questo clave da darsi, diciamo, sull'organo riproduttivo costantemente? E ho visto io, per per testimonianza diretta, che gli stranieri, quando sono arrivati a giugno qua, ridevano delle nostre mascherine. Ci prendevano in giro quando dovevano entrare nei negozi, la gente gli diceva: per favore, devi mettere la mascherina. Mo vediamo. E non sto augurando niente a nessuno, anche perché magari fra un mese dovremo cambiare tutte le statistiche, spero di no, ma per favore. Comunque, visto che si può imparare anche dagli altri, andiamo a cercare di capire cos'ha di particolarmente positivo che potrebbe essere usato come modello il recovery plan presentato dalla Francia, perché sono vale 100 miliardi, di cui 40 concessi dall'Unione Europea, si fonda su tre pilastri e seguendo le indicazioni dell'Unione Europea: transizione ecologica, 30 miliardi, il 30% come chiede l'Europa, competitività, 35 miliardi, e coesione sociale, 35 miliardi. Nessuno stimolo, se ben visto, al potere d'acquisto delle famiglie, ma attenzione soprattutto alle aziende, cioè la Francia sta decidendo, poi uno può pensare quello che vuole, che si danno i soldi alle imprese per mantenere l'occupazione, non si danno i soldi necessariamente alle famiglie per mantenere i consumi, anche perché la differenza è tra dover far ripartire un'economia e invece dover continuare a sussidiare le persone. Però chiedo conferma a Attilio Geroni del Sole 24 Ore. Buonasera Attilio. Buonasera Sebastiano, buonasera a voi tutti. Ecco l'impostazione, poi vediamo anche la cosa che più mi piace di questo piano, visto che ogni tanto mi piacciono anche quello che fanno i francesi, nel dettaglio. Però insomma loro hanno dato già un'indicazione molto chiara su questo: non vi saranno sovvenzioni, se non diciamo, marginali, ai consumi delle famiglie? Sì, è una cosa abbastanza insolita per la politica economica francese, è una manovra, un piano molto impostato sul fronte dell'offerta più che sulla domanda. Quindi, sul mondo delle imprese, quindi? Sulle imprese, per quanto riguarda il capitolo competitività, ci sono tagli alle tasse per 20 miliardi, tagli alle tasse sull'imposta sul valore aggiunto e l'imposta sui beni immobili strumentali. Quindi non è comune che la Francia ci aveva provato anni fa, tanti anni fa, Sarkozy non ha avuto successo a impostare una politica dell'offerta, e ci sta riprovando Macron, il suo ministro delle finanze, Bruno Le Maire. E già questo è un punto importante, lo dico per la discussione governativa. Il Sole 24 Ore sta ospitando da lunedì interventi e suggerimenti su come muoversi, però questo è un punto non teorico, è un punto cruciale e operativo. Loro hanno deciso che per far ripartire l'economia bisogna mantenere i posti, bisogna far ripartire le imprese e permettere in questo modo che non avvengano licenziamenti. Nell'idea, se ho ben capito Attilio, che tu puoi anche sovvenzionare le famiglie, dare bonus quanto vuoi, però se poi hai un licenziato non c'è bonus che tenga per far tenere i consumi, mentre se riduci o la disoccupazione la tiene al minimo possibile, i consumi arriveranno perché la gente lavora. Sì, tra l'altro c'è anche uno schema di incentivi alle assunzioni di giovani, cioè ci sono dei contributi di 5.000 o 4.000 euro all'anno per ogni assunzione che l'impresa fa di giovani. Quindi anche questo, no, è un sostegno pubblico, ma molto centrato sul fronte dell'offerta, che poi è anche il modo perché sia coerente con lo schema del Recovery Fund europeo. Allora, lo dico perché sappiamo che ci sono due anime nel governo, inutile girarci attorno, c'è l'anima del PD e l'anima dei 5 Stelle. Io spero che anche i 5 Stelle capiscano bene, al di là, tanto adesso non ci sono più elezioni in vista, se non le comunali, capiscano bene che un conto è la gestione dell'emergenza, dove andavano messi i soldi, delle volte non sono arrivati nelle tasche degli italiani, 600 euro, poi 1000, e poi le forme di tutela, la cassa integrazione, il reddito di emergenza e il reddito di cittadinanza. Poi però a un certo momento devi passare alla parte, diciamo, costruttiva. Come mantieni il paese? Non lo mantieni facendo debito su debito, debito su debito. Siccome questo è l'ultimo giro del debito, quello del recovery, loro puntano a dare incentivi alle assunzioni, non a dare bonus per i consumi. Veniamo al dettaglio. L'altra cosa che mi piace, Attilio, è che loro hanno già indicato nel piano, usano meno soldi di noi, insomma, sono 100 miliardi complessivamente, di cui 40 sono concessi dall'Unione Europea, e dicono anche quando verrà riassorbito il debito dal 2025, stimano questo piano poter spingere la crescita di 1,5% l'anno, in modo da tornare nel 2022 ai livelli del 2019. Dicevo, l'altra cosa che mi è piaciuta è che loro hanno già messo numeri concreti su tutte le varie voci. Sì, sì, sono stati presi, anche perché la cosa buona di questo piano è la semplicità e la visione. Poi sono i francesi maestri di marketing, no? Tre grandi capitoli, tre grandi voci che tu hai già enunciato, e una visione che va al 2030. Ad esempio la transizione verde, hai la decarbonizzazione dell'industria, 1,2 miliardi, miglioramento dell'efficienza energetica di patrimonio edilizio, 6,7 miliardi, mobilità sostenibile, che per loro vuol dire soprattutto ferrovie, lì le ferrovie sono molto, molto potenti, 4,7 miliardi, sviluppo dell'idrogeno, 7 miliardi. E poi questo soltanto per il primo, e 2 miliardi per il primo capitolo. Per il primo capitolo. Emissioni zero entro il 2050. Qualcuno mi dice, ma se non fai partire i consumi, le aziende cosa producono? No, guardi che il nesso causale è l'opposto di quello che dice lei, mi dispiace. Se io mantengo il maggior numero di occupati e riesco a ridurre la disoccupazione, una persona occupata ha un salario e consuma. Se le aziende non vengono aiutate, mi riferisco al settore turistico in questo caso, con provvedimenti ad hoc, e non vengono aiutate anche alleggerendo il carico fiscale sulle assunzioni, le aziende dovranno, quando si sbloccheranno i licenziamenti, o portano i libri in tribunale o riducono la forza lavoro ridotta, puoi prendere tutto il reddito di cittadinanza che vuoi o la cassa integrazione, che poi non è infinita, però è chiaro che non consumerai mai come un lavoratore assunto, perché non hai neanche la prospettiva. Quindi meglio che le aziende, e tra l'altro con degli accordi che ho visto anche in Francia, in cui se tu ricevi sussidi, Attilio, non puoi licenziare, perché lì c'è un vincolo molto forte. Sì, poi la cosa che non bisogna dimenticare è che la Francia ha un sistema di welfare e di aiuti sociali molto, molto, molto efficace. Se c'è una cosa che ha sempre resistito alle crisi, certo, è vero, anche alla crisi sono i consumi francesi. Sono i consumi fra le famiglie. Le famiglie consumano perché hanno gli stabilizzatori automatici, funzionano bene e hanno tenuto in piedi l'economia francese negli anni passati. Sì, diciamo che è l'opposto dell'Italia. Noi andava bene l'export, esatto, e male i consumi interni. Loro come export non facevano dei gran numeri, ma esatto, avevano dei consumi interni. Tra gli stabilizzatori automatici c'è anche quella politica bellissima che ho sempre invidiato alla Francia sulla natalità, e quindi dopo il primo figlio tutti gli aiuti, bonus babysitter e quant'altro, quoziente familiare, tre figli a carico e moglie, a prescindere dal reddito, di fatto quasi non paghi tasse in Francia, questo fa la differenza, quindi. Ah beh, figurati, però loro dicono, andiamo su questo con un piano molto molto dettagliato. Da questo punto di vista, l'idea è che un piano del genere, Attilio, possa... Tu hai una grossa esperienza a Bruxelles, hai fatto corrispondente per anni, sulle 24 ore. In realtà proprio a Parigi ho fatto. E a Parigi anzi, hai ragione, ti stavo confondendo con Brivio. Però con Parigi. Questo piano potrà passare più facilmente proprio perché è così dettagliato? Sì, è dettagliato, ma alla fine ci sono... Le cose importanti sono le linee guida. Cioè, la cosa che ci dimostra il piano francese è che non bisogna fare 200-300 riforme. Bravo. Bisogna avere 3-4 idee buone. Secondo me lo schema è uno schema lo farei quasi a fotocopia, mutando poi le differenze nostre, perché cioè, ho il terrore delle 120 odiati, pagine. Esatto, i mitici odiati tedeschi, no? Che loro hanno fatto 2-3 riforme negli anni giusti, non di più. Non vorrei la supercazzola del piano, quello che temiamo da ieri, cioè poche indicazioni, appunto, tre pilastri, transizione, cioè loro, quanto è lungo il piano? 48 pagine? Sì, sono. Ecco, noi abbiamo appena fatto un piano che non dice niente, sono grandi obiettivi di 78, ecco, portiamolo a 48 con pochi obiettivi chiari, tre pilastri. 30% transizione ecologica, ripeto, 35% competitività, 20% il resto coesione sociale. E poi tutti i vari, non so, la decarbonizzazione delle imprese vale 1 miliardo e 200 milioni, lo sviluppo della mobilità più ecologica 1 miliardo, la differenza è che loro non dicono vogliamo arrivare alla mobilità più ecologica, l'obiettivo è la digitalizzazione del paese. Loro dicono, noi abbiamo messo 1,2 miliardi che serviranno per arrivare, fine, basta. Ultima domanda, se ho un minuto, chiedo in regia, no, non ce l'ho, forse sì, forse no, non si capisce, non ce l'ho. Allora, mi dici una battuta, per favore, anzi, aspettiamo dai, GR24, perché è troppo importante. Volevo collegare questo piano alla situazione invece in Francia, dove Macron sta cercando in tutti i modi di evitare un lockdown vero e proprio, anche solo su base, diciamo, locale. Però vorrei capire, insomma, qual è la reazione, quali sono le tensioni che si stanno registrando anche in Francia. Te lo chiedo la risposta, però, dopo il GR24, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Vuoi far crescere la tua azienda in Italia e all'estero con i contributi pubblici? Affidati a Gruppo Del Barba Consulting. Da oltre 20 anni Gruppo Del Barba aiuta le aziende italiane, start-up, PMI e grandi imprese a individuare le migliori opportunità di accesso ad agevolazioni fiscali e contributi a fondo perduto. Scopri ora tutte le opportunità a tua disposizione. Chiama il numero verde 800 443 443 o vai su gruppodelbarba.com. Gruppo Del Barba, gli specialisti della finanza agevolata. So che stai cercando un nuovo aiuto per la tua azienda. Ti segnalo un mio amico, un grande lavoratore. Si chiama Vito. Prendilo, farà un gran bel lavoro. Mercedes-Benz ti raccomanda il nuovo Vito. Grazie a un motore potente ed ecologico, al volante multifunzione, alla radio touch e alla telecamera posteriore, lavorare è più semplice e appagante. È tuo con anticipo zero, 6 mini rate iniziali di 30 euro per poi pagare 290 euro al mese. Tag massimo al 361. Salvo approvazione Mercedes-Benz Financial presso le concessionarie aderenti all'iniziativa. La vita scorre lungo la linea dei sogni. Sogni che a volte rischiano di essere spezzati dai tumori del sangue, come le leucemie, i linfomi e il mieloma. Non lasciare che questo accada e sostieni anche tu l'AIL, che da oltre 50 anni, con i suoi 20.000 volontari, sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie per far sì che i sogni della vita si realizzino. Oggi i pazienti immunodepressi hanno ancora più bisogno di te. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info, AIL.it. Non vedo l'ora di essere tra le onde con il surf. Ma perché non andiamo in montagna invece? Ma dai, mare tutta la vita. Ma pensa all'aria fresca, alle passeggiate. E tu pensa al sole, all'acqua, alle cene di pesce. Non mi piace il pesce. Mi fa schifo passeggiare. Compagnia sbagliata? Per la polizza auto e moto, segugio.it trova la compagnia giusta per te e ti fa risparmiare. Segugio.it trova la compagnia giusta. Focus Economia. E 8 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Volevo concludere con Attilio Geroni. Tra l'altro, visto che ieri il ministro Véran ha dichiarato la zona di Aix-en-Provence e di Marsiglia scarlatta, cioè un nuovo colore, un rosso intenso potremmo dire, con la chiusura totale di bar, ristoranti, palestre per 15 giorni a partire, se ben visto, dal lunedì, mentre a Parigi ristoranti e bar devono chiudere alle 10 di sera. C'è stata anche una reazione abbastanza forte, alcuni dicono furiosa, del sindaco di Marsiglia. Questo per tornare alla domanda che avevo fatto ad Attilio Geroni, e cioè dal punto di vista della gestione, che chiaramente la gestione dell'epidemia si lega poi a quello che è l'impatto economico. E se ho ben visto, Macron, ma anche il primo ministro, stanno cercando in tutti i modi di non arrivare a un lockdown neanche nelle singole aree. Cioè, lockdown per noi vuol dire che tutto è chiuso e esci solo per la necessità. Altra cosa è dire che i ristoranti bar dovranno chiudere alle 22 anche a Parigi. Attilio. Sì, quello che vogliono evitare è un lockdown completo, tutti, credo, a livello europeo. Certo che la situazione francese un po' sta sfuggendo di mano, anche l'idea di Macron di aver cambiato il primo ministro utilizzando questo nuovo Jean Castex, che è stato l'artefice del lockdown nei mesi subito dopo l'esplosione della pandemia, si sta un po' ritorcendo contro. Quindi un po' di difficoltà interna a gestire questa pandemia, a trovare il giusto equilibrio tra chiusure parziali e non compromettere il recupero dell'economia. È un esercizio di equilibrismo piuttosto difficile per il presidente francese e per il suo governo in questo momento. Sì, anche perché appunto la reazione è stata molto forte da parte degli amministratori, no? delle zone. I sindaci sono infuriati, Marsiglia e Aix-en-Provence hanno insultato il ministro Véran. Sì, gli hanno detto taci, se ho ben visto, no? Sì, taci. Sì, touch, chiudi il becco Verhan e anche al ministro della salute, anche al altri ministri, sia la sindaca di Saint-Provence che il sindaco di Marsiglia. Grazie, quindi a maggior ragione non c'è un modello francese nella gestione, nel contenimento dell'epidemia, questo lo possiamo dire, anche perché lo dice la stessa Unione Europea. C'è invece un modello francese, ripeto, il mio sogno, 48 pagine, tre punti chiari e soprattutto dentro ogni punto o sottopunto i soldi destinati a quell'iniziativa. Spero che sia così, saremo qua a guardarlo, magari spero anche di essere positivamente sorpreso che arriverà un piano stringato, asciutto, concreto, che entra nei contenuti con la competenza. Grazie a Tiglio Geroni e adesso andiamo sui mercati. Mercati che oggi, al di là degli indici, perché Milano alla fine chiude con un meno 0,12, chiude invariata, peggio Parigi, meno 0,80, Francoforte meno 0,30, Londra meno 1,30 e l'America invece positiva di uno 0,50 sul Dow Jones. Dicevo, al di là degli indici, vedono due casi, Saipem meno 4,40%, poi perde anche Tenaris il 2, Pirelli il 2, Nexi l'1,80, Eni l'1,60 come Azimut, Enel meno 1,20, Mediolanum meno 1 come Diasorin. E poi i bancari, nello specifico Banco BPM più 5,80, Biper più 5,30%, e se guardiamo i migliori e peggiori c'è sto balzo fortissimo del credito valterinese più 11,60%. Andrea Fontana, Radio Cori, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera Sebastiano. Quindi partiamo da Saipem e poi andiamo invece anche su i bancari. Sì, sai che ho risentito più degli altri di una giornata negativa per il settore petrolifero, dell'energia nel complesso, qui direi soprattutto i temi riguardanti ulteriori blocchi, i temi riguardanti la crescita hanno pesato in una giornata che è stata volatile per il prezzo del petrolio ma senza eccessivi sbalzi. Però oltre a Saipem è stata penalizzata anche Eni e anche che ha perso l'1,7% e anche Tenaris che ha perso il 2%. Ma come tu ricordavi, al centro dell'attenzione sicuramente i protagonisti di giornata per diversi motivi sono stati i titoli bancari. Innanzitutto quello che ha scritto il Sole 24 Ore questa mattina, ovvero i passi avanti, i ragionamenti che si fanno a livello europeo per una piattaforma che faciliti la vendita dei crediti deteriorati, è un aspetto positivo che ha permesso al settore di rimbalzare dopo 7 giorni consecutivi di calo, ma soprattutto poi le voci di aggregazioni, quelle smentite di contatti tra Banco BPM e Unicredit, anche se gli analisti la considerano un'ipotesi industrialmente molto valida, e quelle arrivate riguardanti gli interessi del Credit Agricole che starebbe tornando a guardare all'Italia, dove è già fortemente presente con Cariparma, proprio mettendo nel mirino per esempio il credito valtellinese che è salito dell'11%, ma anche altri istituti come potrebbe essere proprio il Banco BPM che è stato il migliore. Ecco, va detto che c'è stata una smentita, se ho ben visto Andrea, di così interessamento, contatti tra Banco BPM e Unicredit, no? Sì, la smentita è arrivata soprattutto da Banco BPM. Unicredit da tempo ripete, anche qualche giorno fa quando è stata tirata nuovamente in ballo sulla questione Monte dei Paschi, ripete che il tema aggregazioni non è all'ordine del giorno, ma effettivamente Banco BPM ha smentito. Gli analisti la vedono come un'ipotesi industrialmente favorevole, ma diciamo questo insieme di fattori è stata un'occasione, ripeto, per recuperare su un titolo che ha perso notevolmente, sta perdendo dall'inizio dell'anno il 33%. Sì, poi ci si interroga su Unicredit cosa voglia fare, nel senso voglia mantenere, diciamo, questa proiezione fortemente europea quindi meno interessata la parte, diciamo, italiana, e qui è Mustier che deve chiarirlo, oppure vuole anche lei entrare nella partita delle aggregazioni italiane, dopo l'operazione che con successo, va detto, ha compiuto Intesa San Paolo. Quindi subi, e quindi il mercato per questo si interroga. Poi sono d'accordissimo con te che siano anche pretesti e scuse quando perdi per 7 giorni di fila. È chiaro che poi ti basta qualunque elemento per tornare a comprare. Bene anche Fineco Bank, -2,90, Leonardo -2,5, Unicredit -2,30, Atlantia -1,60, Banca Generali -1,30, e scusatemi, +1,30, +1,60 Atlantia e +2,20 Unicredit Leonardo. Invece il meno è, oltre che su Saipem, Metenaris e Pirelli, anche su Eni, come tu ricordavi, -1,70, Azimut -1,60, Enel -1,20, è meglio l'anno -1. L'euro su dollaro, mi chiedete, ha ritracciato un po' rispetto alle preoccupazioni di 2 settimane fa, che io personalmente ritenevo eccessive. Siamo comunque a 1,16 nei confronti del dollaro. Grazie ad Andrea Fontana. Andiamo adesso sul traffico. Atlantia non abbiamo dato, ve la diamo dopo, perché il prossimo tema, visto che c'è stato oggi il consiglio di amministrazione di Atlantia stessa, non vi tengo in attesa. +1,60 il titolo, un consiglio di amministrazione che, se ho ben capito, anche qui si è tenuto aperte tutte le possibili strade, o dual track come lo chiamano loro. Blumatica, il software scelto da ingegneri, architetti, geometri, geologi e periti, vi presenta Focus Economia. Atlantia. Allora, Atlantia vuol dire Autostrade per l'Italia, nel senso che Atlantia ha l'88% di Autostrade per l'Italia, i Benetton hanno il 30% di Atlantia. Sapete, la vicenda ce ne siamo occupati moltissimo. Oggi c'è stato il consiglio di amministrazione che ha avviato il cosiddetto dual track, cioè il doppio percorso, che prevede o la cessione di Aspi oppure la vendita in blocco dell'88%, per essere precisi, per cento del capitale che ha in Autostrade per l'Italia. Il processo è rivolto sia a Cassa Depositi e Prestiti che a altri investitori istituzionali, e prevede la scissione parziale e proporzionale, diciamo, del prima il 55% e il 33% nella neocostituita Autostrade Concessioni e Costruzioni, da quotarsi in borsa con l'uscita di Atlantia dal suo capitale. In realtà io penso che agli ascoltatori interessi soprattutto capire come uscirà Atlantia da Autostrade per l'Italia, visto che questa è l'unica cosa certa, per usare, diciamo, una vecchia espressione giornalistica, l'unica cosa certa è che esce da Autostrade per l'Italia, ma soprattutto se va avanti il percorso individuato dal governo con il ruolo attivo della Cassa Depositi e Prestiti. Laura Galvagni del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Dunque, Laura, voi domani avrete, immagino, una lunga analisi anche su questo, però al di là dei tecnicismi finanziari, loro che cosa hanno detto? Che o la vendono a Cassa Depositi e Prestiti? Cioè, cosa vuol dire dual track? Allora, loro sostanzialmente hanno deliberato, loro l'hanno chiamato dual track, ma possiamo immaginare un binario doppio che corre parallelamente. Fino a un certo punto continueranno a correre parallelamente, poi si deciderà quale delle due opzioni prevale. E come si deciderà? Immaginiamo che abbiano aperto sia un percorso di vendita, quindi una sorta di data room all'interno delle quali i potenziali investitori andranno a vedere l'asset, valuteranno se fare o non fare l'offerta, e allo stesso tempo proseguiranno con il processo di scissione. Quindi a fine ottobre verrà deliberata la scissione, si proseguirà anche in quella direzione. Poi a un certo punto, se dovesse arrivare un'offerta molto più interessante rispetto a quella che è lo scorporo dell'asset, potrebbe prevalere l'idea di venderla. Diversamente si continuerà e si arriverà alla separazione sostanzialmente di Atlantia da Autostrade per l'Italia. Sul come sostanzialmente è un po' complessa tecnicamente l'operazione, ma di fatto viene preso un 55% di ASPI e viene messo in un nuovo veicolo, quello che nominavi tu prima, e successivamente viene conferito il restante 33% sempre in quello stesso veicolo. All'esito di questa operazione, i Benetton Atlantia fondamentalmente si troverà con circa un 38% di quel veicolo, e a quel punto quella sarà la quota che Atlantia metterà sul mercato, e potenzialmente lì potrebbe rientrare Cassa Depositi e Prestiti, così come potrebbe entrare evidentemente nella data room per valutare l'acquisto dell'intero asset. Il tema però è che c'è uno stallo e c'è una differenza di vedute insanabile. No, aspetta, su questo volevo arrivare, perché secondo me la vicenda è un po' complicata. Ma allora loro dicono: il dual track a casa mia si chiama non, diciamo, convergenze parallele, lì torniamo alla vecchia DC, ma nei binari parallele, si chiama ci teniamo aperte tutte le possibilità. Ho capito bene, Laura? Cioè ci teniamo aperte la possibilità di andare avanti con la trattativa con Cassa Depositi e Prestiti, ho la possibilità di prendere sto pacchetto e collocarlo sul mercato. Dimmi, interrompimi. Allora, in entrambe le opzioni può intervenire Cassa, perché Cassa può decidere sia di comprare l'88 sia di andare ad acquistare poi quel sul 38% quel 38% direttamente da Atlantia, in realtà, okay. Non sul mercato, direttamente da Atlantia, una volta completato il processo di scissione. Quindi, come dire, perché quel 38% verrà proprio destinato a investitori terzi, quindi o acquista l'intero asset oppure acquista il 38% della Newco, sostanzialmente, che è stata, cioè, o se prende tutto l'88 oppure decide di prendersi il 38 della Newco e l'altro 50 resta sul mercato, se ho ben capito. E l'altro viene quotato. Viene quotato sul mercato, perfetto. Ultima domanda: qual è in questo momento lo stallo con Cassa Depositi e Prestiti? Allora, ci sono due gli ostacoli perché l'accordo possa chiudersi, e sono due ostacoli che al momento sembrano difficilmente superabili. Cassa vuole che divenga garantita la manleva sui danni futuri del ponte di Genova, cioè su quelli che sono i danni che allo stato attuale non possono essere calcolati perché potrebbero emergere in futuro. Cassa la pretende, da parte loro dicono no. Per noi con l'atto transattivo la questione Genova si chiude, non possiamo dare ulteriori garanzie su qualcosa che è imponderabile e che al momento non può essere valutato. E quindi questo è il primo elemento di complessità. Il secondo è dettato dal fatto che attualmente l'atto transattivo, che è sostanzialmente l'atto che accompagna il piano economico finanziario della futura nuova Autostrade per l'Italia, prevede che il piano economico finanziario venga approvato solo nel momento in cui si completa l'accordo con Cassa Depositi e Prestiti, cioè il Ministero sostanzialmente ha chiesto di mettere questa clausola nell'atto transattivo, il PEF viene approvato solo se Cassa entra nel capitale. Questa invece è una clausola che Autostrade non vuole, perché dice non posso vincolare la trattativa della vendita di un asset a un unico soggetto. Io sono una società quotata, per tutelare i miei azionisti e tutti gli stakeholder, il mio percorso deve essere un percorso trasparente, un percorso di mercato. Allora, questo risponde in parte anche alla domanda che so che è sotto traccia, alcuni me la fanno, ma come adesso noi, dopo quello che hanno combinato, dobbiamo anche spendere soldi per ricomprarci una cosa che era nostra, che era data in concessione? Dunque, in realtà, da un punto di vista tecnico, non è così, perché se loro collocano sul mercato l'88%, è il mercato che se lo compra, non siamo noi. Poi la CDP chiaramente può prendere, come tu ricordavi, il 38%, esatto. E questa è una scelta, diciamo, nostra, per avere maggiore controllo sulla rete infrastrutturale. Però Atlantia ha chiarito in maniera molto trasparente che, insomma, se no lo mette sul mercato. Questo poteva fare, è un soggetto privato, quotato in borsa, lo mette sul mercato, troverà, vedremo a che prezzo verrà fatta l'offerta. Sulla manleva invece io penso che abbia ragione la Cassa Depositi e Prestiti, Laura, però, perché la vicenda del ponte di Genova è ancora lì, è una vicenda lì, cioè, l'inchiesta ancora in atto. Parliamoci chiaro, la CDP non è che volesse entrare in Autostrade, gliel'ha chiesto il governo. Per cui uno dice, bene, ma siccome gestisco anche il risparmio postale degli italiani, per favore datemi la garanzia che poi domani non mi trovi impelagata in tutto un insieme di cause dovute a una gestione che non era sicuramente della CDP. Potrebbe sbloccarsi questa vicenda? No, perché da come tu le descritte sembrano due posizioni molto distanti. Sì, sono due posizioni allo stato attuale insanabili. Bisogna vedere se le parti hanno ancora intenzione di sedersi al tavolo, nel senso che CDP comunque lamenta anche il fatto che ormai questo tavolo di trattativa è aperto da mesi, perché è aperto veramente da tanti mesi, e alla fin fine, per una ragione o per l'altra, c'è sempre un ostacolo, l'ultimo ostacolo da superare, che non porta mai all'accordo. Sì, tra l'altro, e con delle conseguenze. La tentazione di CDP è di fare un passo indietro e dire adesso. Adesso arrangiati. E a quel punto tocca la palla tornare nel campo del governo, nel senso che il governo, allo stesso modo come si diceva prima, ha in mano il PEF e l'atto transattivo. Senza il via libera PEF e atto transattivo non è possibile stabilire un valore di autostrade per l'Italia, e di conseguenza diventa complicato sia fare la scissione sia fare la vendita. Sì, che è una minaccia parziale, perché questo vuol dire: guarda, che io posso anche non darti l'atto transattivo e quindi tu non riesci a vendere. Vabbè, così Atlantia e Benetton continuano a tenersi autostrade. È una minaccia. È una situazione di stallo. Certo, però che tra l'altro ha delle ripercussioni, o rischia di avere delle ripercussioni anche a livello macro, perché l'altro ieri nel raccontare con Giorgio Santilli tutti i piani di Italia Veloce, quindi le opere da commissariare. Opere infrastrutturali in cui ci sono già i soldi in attesa di quelli che arriveranno dall'Europa, citavamo il caso della Gronda. Beh, la Gronda è bloccata, come Laura Galvani sa molto bene, proprio in attesa di capire che cosa succederà all'autostrada per l'Italia, perché insomma, e poi ci sono delle ricadute che non vanno solo sulle responsabilità sul ponte di Genova. Grazie anche a Laura Galvani, perché era importante, è stata molto chiara, capire come intanto le strade aperte che si è tenuta Atlantia, e poi dall'altro però anche lo stallo con la Cassa Depositi e Prestiti. Di Ilva parleremo domani, anche perché domani c'è l'incontro dei vertici con i sindacati. Intanto, da Sebastiano Barisoni, l'auguro di una buona serata. È ora di avere un sito internet, è ora di vendere i tuoi prodotti online, è ora di farlo da solo, perché è facile, perché tu puoi, con Supersite, su aruba.it.